Avrebbe detto: la vicenda del mostro, cioè che sarei io, è una favola comoda per molti. Che vuol dire? Che prima o poi parlerà tirando in ballo qualcun altro? Vi lascio con questo quesito. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:22. Spesso noi raccontiamo storie del mondo della casta, non so se si considera da qualche giorno anche parte della casta, principe, vale a dire il Parlamento, anche l'onorevole Marco Airaghi, che saluto del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, lei è subentrato, non è la prima esperienza parlamentare per la verità, ma è subentrato in questo Parlamento da pochi giorni per la rinuncia di Antonio Verro, che era consigliere di amministrazione RAI e quindi ha deciso, tra l'altro l'ha annunciato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa, ha lasciato il Parlamento. Lei è subentrato, solo che lei è già direttore generale dell'Agenzia Industria e Difesa, dunque un altro dirigente dello Stato, del Ministero della Difesa, e ha chiesto di fatto... mi dica se è vero, di non ricevere la paga di parlamentare, è così? Sì, esattamente così, ma non è un atto di eroismo, è un atto assolutamente normale. Qualcuno mi sta dipingendo come un grande che ha fatto una scelta, ma lo trovo una cosa ovvia. Io ma di sti tempi anche un gesto normale può apparire, capisce, che voglio dire, non chiedere di non essere pagato da parlamentare può apparire un gesto eroico di questi tempi. Ma mi dispiace se appaia un gesto eroico, io credo che ci siano un sacco di colleghi parlamentari o che facciano e si comportino in un modo assolutamente analogo sulla correttezza e l'impegno per mettere a posto le cose in questa nostra Italia che ha tante difficoltà da risolvere. Io ho solo una questione, siccome nell'attesa che sia eventualmente confermata l'incompatibilità tra la mia attività alla difesa e la mia nomina parlamentare, per un certo periodo io ricoprirò entrambi gli incarichi, mi sembra evidente che essendo un dirigente dello Stato pagato dallo Stato sarebbe immorale che io ricevessi due stipendi dallo Stato per un'attività che alla fine per qualche periodo devo dividere. Insomma. Il problema però qual è? È che lei ha fatto questa richiesta, secondo qualche giornale alla Camera sono un po' hanno strabuzzato gli occhi, magari non è vero, magari questo è colore giornalistico. Sta di fatto che le hanno risposto non si può. Ma sì, in effetti è così. Quando io ho fatto i primi adempimenti necessari per entrare in Parlamento e poter porre poi la questione formale alla Giunta per le elezioni sull'eventuale incompatibilità, le gentilissime funzionarie della Camera che mi stavano assistendo nell'ingresso, alla mia domanda, più che altro richiesta, ovvia, ovviamente non voglio percepire l'indennità parlamentare perché in questo momento già lavoro per lo Stato, hanno dovuto chiedere verifiche, erano 10 mattina, ho avuto una risposta alle 18 da un'altra funzionaria della Camera che mi diceva: caro onorevole, abbiamo verificato, è un caso che non si era presentato e l'indennità parlamentare non può essere per legge rinunciata. Fatto che, guardi caro giornalista, io ritengo giusto, perché ritengo giusta l'indennità parlamentare per garantire ai parlamentari indipendenza assoluta nelle loro decisioni e nel loro ruolo. Allora, ma infatti guardi che è una prerogativa che non è rinunciabile, è per una questione di tutte, sa, nasce da periodi in cui periodi un po' più bui dell'Italia, opportuna, no? Opportuna, tanto che se mi permette un brevissimo intervento, ma veramente breve, io non sono molto anzi sono decisamente preoccupato dai toni anticasta, demagogici, populisti che ultimamente stanno crescendo in Italia, perché questo tipo di atteggiamenti in passato ha sempre portato a disastri. Il populismo è devastante, la politica è assolutamente indispensabile anche per aiutare l'Italia a uscire dalla crisi. Certo, ci vuole una politica buona. Ma infatti, quello che si può dire è che non serve gente che non sia pagata. Non vogliamo gente che non sia pagata in Parlamento. Vogliamo gente che sappia fare il proprio lavoro, come in tutti i campi. No? E queste cose. Senta, mi ha colpito il fatto che le abbiano detto è un caso che non si era mai verificato. Cioè, lei è stato il primo a porre la questione in questi modi, no? Temo di sì, ma non sono andato ad approfondire la questione perché mi aveva molto meravigliato, non ho approfondito la questione. Poi ho avuto una risposta che in effetti per i dipendenti statali esiste la possibilità di optare per uno o per l'altro stipendio, però questo succede una volta che si abbia scelto che cosa fare. Se il dipendente statale decide di restare alla Camera e si mette in aspettativa al suo lavoro, beh, questo è ovvio che non può percepire. Certo, prende quello della, comunque quello della Camera non è, quello della Camera da parlamentare non è rinunciabile. Se non in caso di statale si può decidere quali dei trattamenti scegliere, però mantenendo le altre guarentigie della Camera, ovviamente. Certo, cioè cosa vuol dire? Lei potrebbe scegliere che cosa? Io, allora, credo di aver capito, se ho capito bene, perché proprio oggi avrò un incontro con un dei dirigenti massimi della Camera per spiegarmi bene la situazione. Ho capito che in caso di aspettativa dalla difesa, sì, però, io potrei scegliere come retribuzione di non avere quella della Camera ma di mantenere quella della difesa. Credo che sia questa, ho capito che c'è questa norma. Ah, ok, che immagino sia inferiore quella della difesa, oppure no, magari lei guadagna, adesso le facciamo un po' i conti. Non sono uno dei super manager dello Stato, ho un buono stipendio come equiparabile a quello di un generale. Se alla fine tra l'altro sono uno dei famosi precari di cui si parla, perché è un lavoro a tempo determinato. È monotono questo posto fisso. È molto monotono. Molto monotono. Senta, e niente, lei ci sta provando. Cioè, alla fine che cosa, come si concluderà questa vicenda? Che si terrà i due stipendi? I due stipendi sicuramente no. No. Con molta serenità temo anche che si confermerà un'incompatibilità. Quindi dovrà rinunciare. Che voglio sentirmi dire, perché le dico che sto lavorando seriamente alle industrie della difesa da oltre 3 anni e devo dire modestamente con dei buoni risultati. Credo che sia molto importante per aiutare la nostra Italia e la nostra difesa, a cui sono molto affezionato, mi ha accolto come un figlio, aiutare a risparmiare e gestire meglio gli stabilimenti in questo momento di tagli pesantissimi per il dicastero, per cui mi metterebbe di fronte a una scelta molto critica. Sì, perché l'Agenzia Industria e Difesa sarebbe a favore della difesa. L'Agenzia Industria e Difesa, di cui lei è direttore generale, si occupa appunto di economizzare, rendere più efficienti dal punto di vista dell'economia gli stabilimenti del Ministero della Difesa. Senta, esatto. Quindi due stipendi non li avrà. Mi fa capire che se c'è un'incompatibilità lei lascia il Parlamento. Cioè non gliene frega niente di stare in Parlamento in questo momento, le è capitato un po' tra capo e collo, ecco. Diciamo che io avevo già fatto 2 mandati parlamentari, in questo mandato parlamentare subentro a 1 anno e qualcosa dalla fine per sostenere un governo tecnico, giustamente e necessariamente da sostenere, perché l'Italia ne ha bisogno. In questo momento starei pensando che mi sembra più importante la mia attività alla difesa. Non lascerei a collegare al Parlamento, perché ho passione per la politica e soprattutto penso anche alle tante persone che mi hanno votato, ai tanti militanti che mi sono da sempre vicini. Però effettivamente in questo momento darei molto probabile la mia scelta verso la difesa. Intanto la saluto, la ringrazio, ci faccia sapere come va a finire questa storia di stipendi, ecco, onorevole. Mi sa che se va avanti così lo scopriremo. Lo scopriremo presto. Sì, visto anche quella della questione dell'emolumento, non è una mia iniziativa, ma è stata una domanda di un'agenzia informata da un amico. Scoprirete tutto dalle agenzie. Noi giornalisti siamo veramente terribili. Questa sì che è una vera casta, la vera casta. Abbattiamola la casta dei giornalisti. La ringrazio, onorevole. Devo lavorare bene anche quella. Grazie, buona giornata, onorevole Marco Airaghi del Popolo della Libertà. E noi, a proposito di soldi e politica, torniamo sul tema finanziamento ai partiti. È uscito un libro dal titolo I soldi dei partiti, gli autori Elio Veltri e Francesco Paola. Uno dei due, Elio Veltri, sarà con noi insieme a Massimo Cacciari tra poco per parlare appunto di finanziamento alla politica. 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti è uscito un libro che parla del tema finanziamento ai partiti, molto attuale. La vicenda del tesoriere, ex tesoriere della Margherita, la conosciamo, è sui giornali, 13 milioni forse fatti sparire e l'espulsione ieri decretata dal Partito Democratico, perché Luigi Lusi ora fa parte del Partito Democratico. Il libro si intitola I soldi dei partiti, tutta la verità sul finanziamento alla politica in Italia. Gli autori sono due, sono Elio Veltri e Francesco Paola, edito da Marsilio, e insomma che pone nuovamente l'accento sulla questione dei rimborsi elettorali ai partiti. Saluto Elio Veltri, buongiorno e benvenuto Veltri. Pronto? Eccoci, buongiorno Veltri. Pronto, buongiorno. Guardi, sono in una situazione difficilissima, sì, perché sono alla stazione Rogoredo di Milano. Spero che mi sentiate e che io senta. Noi la sentiamo benissimo. Mi lasci salutare anche il filosofo Massimo Cacciari. Buongiorno, professor Cacciari. Parleremo ovviamente di costo della democrazia e costo del finanziamento ai partiti. Partiti che si prendono 200 milioni di euro l'anno in Italia. E gli Oveltri, come funziona questo meccanismo e chi controlla sull'erogazione di fondi ai partiti? Il meccanismo finora per i partiti ha funzionato benissimo, perché dopo il referendum del 93 hanno cambiato il titolo, anziché chiamarsi finanziamento ai partiti, si chiama rimborso delle spese elettorali, l'hanno aumentato di 4 volte in un colpo solo, e quindi è arrivata a queste cifre iperboliche. E lei mi chiede chi controlla? Nessuno, cioè formalmente sono 3 i controllori: la presidenza delle Camere, della Camera, che è in evidente conflitto di interessi perché eroga il finanziamento e dovrebbe controllare, i revisori dei conti di Camera e Senato, i quali oltretutto sono molto ben pagati e ogni anno dichiarano la stessa cosa, cioè che loro fanno un controllo solo formale, cioè non controllano nulla. E poi c'è la Corte dei Conti, che ogni anno protesta perché dice che questo non è un rimborso delle spese elettorali ed è un finanziamento vero e proprio che è stato cancellato dal referendum del 93, sì, ma anche lei per legge non riesce a controllare, non può controllare. Per dare un'idea, do 2 cifre. Nella campagna elettorale del 2006, facciamo il caso di Rifondazione Comunista, ma vale per tutte, per ogni 100 euro spesi ne hanno incassato circa 2.000, e nel 2008 la Lega per ogni 100 euro spesi e dichiarati ne hanno incassati 1.400. Sì, questo per dire che non si possono, economica in cui si guadagna di più. E certo, non si possono chiamare rimborsi. La parola rimborsi vuol dire io spendo 1 euro in campagna elettorale e mi ritorna 1 euro. Questo l'abbiamo sottolineato varie volte. Tra l'altro, in questo libro c'è anche, sembra quasi anticipata la vicenda attuale Lusi, e tra poco vedremo di cosa si tratta. Io però vorrei coinvolgere il professor Massimo Cacciari. Il tema che ci si pone e la domanda che si pone al cittadino è questa: è giusto, visto che la democrazia costa, che ci sia un finanziamento di un qualche tipo, al di là del fatto che il referendum e quindi il popolo si era espresso ed era stato cancellato, ma è giusto che la politica vada finanziata, perché altrimenti se no la fanno solo i ricchi? Tutto è giusto, è una cosa che accade, è giusto o non giusto. In tutti i paesi i partiti politici vengono in qualche modo finanziati. Io penso che il modo in cui vengono finanziati da noi sia aberrante, come ha spiegato Velti prima, sia una cosa scandalosa, tenendo conto anche del risultato del referendum che prima si ricordava. Ci sono altri sistemi possibilissimi, ma il più ovvio di tutti sarebbe che i partiti potessero accedere all'8 per mille. Io voglio sostenere un partito e con la mia dichiarazione delle tasse l'8 per mille lo do, come lo do adesso, non so, alla Chiesa Cattolica, lo do a Forza Italia, lo do alla Lega, lo do al Partito Democratico. Quello sarebbe il finanziamento più ovvio, in cui si potrebbe anche vedere quanto poi un partito conta di nell'adesione popolare, nella militanza, eccetera. Cioè, e poi tutte le altre forme controllate come vengono controllate altrove. Cioè, io voglio finanziare un partito e chi me lo deve vietare? Do 1 miliardo alla Lega, ebbene, do 1 miliardo alla Lega, basta che si sappia, è inutile fare i moralisti su questo, è evidente che per fare politica in grande stile oggi negli Stati Uniti, come da noi occorrono tanti soldi, basta che ci sappia da dove vengono. Io so che quel partito è finanziato come so negli Stati Uniti, so che Bush era finanziato dai petrolieri, bene, basta, so che e ma questo già è possibile. E quando voto Bush so che è finanziato da quelli, fine, è inutile fare gli ipocriti. Questo però già si può fare, si può fare già cacciare questo, cioè se io voglio da cittadino privato che questo soldi. Va controllato come si deve, che ne so io chi ha finanziato il Partito Democratico privatamente, lei lo sa, io so in grosso modo chi va a qualche cena, che ne so io. Cioè lì invece ci occorrono degli interventi di controllo assolutamente pervasivi, come avvengono negli Stati Uniti, che sanno per filo e per segno chi sono i finanziatori. E io se voto un partito so che quel partito è di fatto finanziato dai petrolieri, finanziato dalle case automobilistiche, finanziato dalla Google, e lo so. Bella sta cosa dell'8 per mille. Bella sta cosa dell'8 per mille, ma non prenderebbero un soldo i partiti, cioè col livello di allora, popolarità. Che si arrangino con la militanza, no, ma guardi, scusi un momento, quando io ero deputato del Partito Comunista Italiano, sì, io lasciavo, non avevo rimborsi spese, non avevo benefit di nessun genere se non i viaggi in treno per andare a Roma, non avevo segretari, non avevo portaborsa, non avevo niente, perché nessuno li aveva allora, va bene, stavamo in 300 in uno stanzone, forse a quell'epoca anche Velti era deputato, e lasciavo metà del mio stipendio al Partito Comunista Italiano, sì, trattenuta mensile all'inizio alla fonte. Siccome ci hanno molti deputati, molti consiglieri regionali, che facciano altrettanto di come si faceva una volta, se non prendono i soldi con l'8 per mille. Prendono i soldi dalla politica. Elio Veltri, lei appunto in questo libro con Francesco Paola parla per esempio della famosa riunione, e il libro è stato scritto prima dello scandalo Lusi, la riunione in cui in quattro praticamente della Margherita decisero sul fondi di 20 milioni di euro di attivo che farne. Cioè, voglio dire, quattro persone, tra cui il tesoriere Lusi. Pronto? Sì, eccoci, Veltri. Ci sente? Veltri, noi siamo qua, la sentiamo benissimo. È la stazione di Rogoredo, evidentemente, di Milano. Veltri, ci sente? Eccoci qua, allora, Elio Veltri, abbiamo ripristinato il collegamento, ci sente? Sì. Eccoci qua, allora, nel libro sì, lei parla anche del caso, parlate del caso Lusi, prima della vicenda esplosa, sì, cioè di questa sì, assemblea federale della quale quattro persone della Margherita decisero su 20 milioni di euro d'attivo, quattro persone. Sì, sì, ma poi tra le altre cose si facevano gli sgambetti per impedire che alcuni che avevano cambiato partito, perché la Margherita faceva parte dei partiti estinti, e potessero partecipare, tant'è vero che Arturo Parisi con una battuta disse che le assemblee si facevano nell'ora in cui il Manzoni dice che si andavano a sposare Renzo e Lucia, quindi era tutta una cosa non trasparente e opaca. E non riguarda solo la Margherita, evidentemente. L'unico partito che ha il bilancio certificato da una società internazionale è il Partito Democratico. Gli altri sono tutti partiti personali. No, non si capisce dove vanno a finire i soldi. Che ne pensa di quello che Cacciari ha proposto? Paghino, cioè ci sia la possibilità di dare l'8 per mille ai partiti, così i cittadini danno l'8 per mille se vogliono, oppure ci siano i finanziamenti privati, però io devo sapere chi dà tot centinaia di migliaia di euro al partito Pinco Pallino. Allora, le cose sono due. Cacciari, forse non so se si ricorda, che uno dei tentativi è stato già fatto nel 97, approvammo una legge, l'unica decente da questo punto di vista, che prevedeva il 4 per mille, però si era cautelato il governo nel dire intanto cominciamo a dare degli anticipi, e furono dati degli anticipi di 160-170 milioni di euro. Perché? Perché la legge non funzionava e la gente non versava. Certo. Ma questo, siccome nel libro è riportato il dibattito parlamentare delle varie leggi, per la legge del 74, quella istitutiva, era stato chiarito, devo dire che gli unici che si opposero furono i liberali, i quali avevano capito tutto, perché dissero: guardate che se i partiti diventano un'appendice finanziata dello Stato, diminuisce la militanza, i militanti non verseranno più soldi, diminuisce il sostegno dell'opinione pubblica, diminuisce la partecipazione, sì, il partito diventano organismi burocratici o personali. Esattamente come poi è avvenuto. No, ma infatti l'accusa su questo, Cacciari, quando si dice, lei dice l'otto per mille e poi la gente non dà soldi, il rischio per molti è e poi i partiti che fanno sono costretti a rubare. Cacciari, lo so che la dimostrazione c'è stata con Tangentopoli, fu fatta la legge sul finanziamento ai partiti dicendo se no rubano, si è dimostrato con Tangentopoli che rubavano più di prima. Però Cacciari, questa accusa di dire se poi non trovano soldi, i partiti come fanno a mantenere i costi della democrazia? Secondo il finanziamento, secondo la classe di partito, è chiaro che un partito che come attualmente sono, ahimè, perché questo è uno degli elementi fondamentali di crisi della democrazia in generale, sono diventati dei comitati elettorali sostanzialmente e i soldi li spendono per fare le campagne elettorali dei leader, per comunicare l'immagine di qualche leader sostanzialmente. Allora è chiaro che i partiti sono in condizioni, diciamo così, politiche, etiche nel senso più forte del termine, che rendono possibile anche rubare, anche se sono pieni di soldi di finanziamento pubblico, voglio dire. Cioè, qui stiamo parlando della crisi del sistema dei partiti, particolarmente grave in Italia e presente ovunque, elemento fondamentale di una crisi della democrazia, degli istituti democratici, di questa cosuccia qui stiamo parlando, banalizzandola con i casi Lusi e con altre puttanate di questo genere, cioè stiamo parlando di questo e fin tanto che non affronteremo questo toro per le corna e capiremo che ormai non funziona più questa democrazia, questi istituti parlamentari, questo parlamentarismo eccetera eccetera, i partiti saranno quelli di adesso e se non sono finanziati attraverso i meccanismi attuali e creperanno, ma crepando i partiti crepa anche la democrazia, questo deve essere chiaro, perché non esiste idea di una democrazia senza partiti. E infatti questo è il punto, il rischio, il rischio è questo, quindi un finanziamento ci vuole, la democrazia costa, sarà anche una banalità, ma è anche un qualcosa di vero, no, Cacciari? Che sia veramente rimborso, facciamo un finanziamento che sia autenticamente rimborso, cioè certificano, mi mostrano le fatture di quanto hanno pagato per la campagna elettorale e tot prendono all'interno di determinati limiti e quello viene rimborsato per la campagna elettorale, punto e basta. Un euro a voto, punto e basta, ma con la presentazione delle fatture. Sì, ma infatti il rimborso, quando avevo il tesoriere del PD la scorsa settimana, il senatore Misiani ha detto no, ma infatti chiamarlo rimborso è un'ipocrisia, io preferisco chiamarlo finanziamento pubblico ai partiti, come c'è in tutte le democrazie, certo forse non a questi livelli di soldi. Veltri, io tra l'altro non l'ho detto, Elio Veltri è un politico, è stato cofondatore dell'Italia dei Valori, poi si è dissociato anche in grossa polemica con Di Pietro stesso. Com'è la diatriba sui fondi con Di Pietro? A che punto è, Veltri? Perché siete finiti a carte bollate, se non sbaglio. Non ci sente più, è sempre Rogoredo. Veltri! Sì? Com'è finita la questione con Di Pietro a carte Pronto? Bollate? Com'è finita la questione con Di Pietro, Veltri? Pronto? Non ci sente. Ma noi la sentiamo benissimo. Andiamo a sentire allora Francesco da Andria. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sarà stato il nome intervento di Pietro che l'ha fatto un po'. Dica. Sì, pensavo mi avesse scambiato per Veltri. No, la prego, Francesco, dica. Sì, molto interessante la trasmissione di oggi. Secondo me bisognerebbe puntare, tramesso diciamo ovviamente i media e quindi tutti diciamo gli organi che non sono parte della politica, per spingere Monti a tagliare anche i costi della politica, che sono evidentemente troppo alti. Bisogna cambiare una legge. La legge, sa chi la fa? Sa chi la fa, Francesco? Il Parlamento, va bene, ma si sfacciassero. Come, si sfacciassero a non votarla, portasse in aula, in aula questo drastico ridimensionamento. Sì. E dopodiché... C'è un bel decreto legge di Monti, come dice Cacciari, fare il vero rimborso, spendete 100 in campagna elettorale, otterrete 100 e quindi niente plus valore. Sposiamo questa idea, insomma, sarebbe almeno così li possiamo chiamare rimborsi a ragione. Veltri, ci sente? Poco. Ecco, com'è finita con Di Pietro? Pronto? Con Di Pietro, com'è finita? Pronto? Vabbè, niente. È il nome Di Pietro, Di Pietro lo conosce. Ci sente? No, vabbè. Niente, allora chiudiamo. Pronto? Qui, anche perché mancano 30 secondi e chiudiamo. Vi ringraziamo comunque, il problema è la stazione di Rogoredo. Il professore Massimo Cacciari per essere stato con noi, così come Elio Veltri, di cui voglio ricordare il libro insieme a Francesco Paola, si intitola I soldi dei partiti. Lì trovate tutta la verità sul finanziamento alla politica in Italia, l'editore è Marsilio, lo trovate ovviamente in libreria. Ci fermiamo, ringraziamenti da Viola Bottoni, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia, anche Miriam Lucchetti, dimenticavo, in redazione. E allora che dire, ci troviamo domani alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.